Il gran viaggio di Agatha. Faceva un caldo micidiale e sul binario regnava il caos. Bambini esaltati correvano da tutte le parti e la mamma mi salutava piangendo come se non dovesse vedermi più per molti anni. In realtà, la gita di classe sarebbe durata solo una settimana. Una settimana a Ulm con la maestra, la signora Salici, e il signor Holm, il professore di educazione fisica. Ulm era una città da qualche parte in basso a sinistra. Finalmente è arrivato il treno. Io volevo assolutamente mettermi nello scompartimento con Richard, Bernard e Tom, Suzanne e Cristiana. Era tutto un gran spintonare e sgomitare. Tom avanzava a fatica dal fondo dello stretto corridoio. Aveva una pancia più sporgente del solito. Bernard gli stava dietro. Io e Richard arrivavamo dalla parte opposta. Suzanne e Cristiana si erano piantate davanti a uno scomportamento vuoto e tenevano i posti. Abbiamo buttato dentro gli zaini e ci siamo affacciati al finestrino per salutare i nostri genitori. Il capostazione ha fischiato e il treno è partito. Poi ha fatto una curva e sono spariti tutti. Lo scompartimento era davvero super. Abbiamo tirato in avanti i sedili formando un unico grande letto e ci siamo messi comodi. Ma quando Cristiana ha posato lo sguardo sulla pancia di Tom, ha lanciato un urlo. La pancia di Tom si muoveva, qualcosa si spostava sotto la sua camicia. Tom ha alzato la stoffa. Sulla pancia cicciottella di Tom, una tartarughina si muoveva sulle sue buffe zampette. Questa è Agatha, ha detto Tom. Il patatrac è successo il quarto giorno. Cari bambini, ha iniziato la maestra, oggi andremo a fare un'escursione in montagna a Blautopf, un laghetto molto lontano dall'ostello, con un'acqua tutta blu. Cristiana ha domandato quanto fosse lontano e il professor Holm ha risposto: beh, c'è da fare una camminata di 15 chilometri. La signora Salici ha sorriso al professore, che l'ha ricambiata con i suoi dentoni bianchi da sportivo. 15 chilometri, ha pigolato Suzanne. Andata e ritorno sono 30, ha infierito Cristiana. Quei due sono pazzi, ha bisbigliato Richard. Non sono pazzi nemmeno un po', ha commentato Suzanne. Sono cotti e siamo fortunati che non ci facciano camminare per 100 chilometri, perché agli innamorati non importa niente di niente. Bernard ha chiesto a Suzanne come faceva a sapere che erano innamorati. Susanna lo ha guardato come se fosse la persona più stupida del mondo. Le donne certe cose le sentono, ha bisbigliato. Quando due persone sono innamorate, c'è una vibrazione speciale nell'aria. Io non avverto nessuna vibrazione, ha confidato Bernard a Susanna. Aspetta e vedrai. 5 ore più tardi Tom era seduto su un tronco d'albero in riva a quello stupido laghetto, che non era per niente azzurro, e piagnucolava che aveva le vesciche ai piedi. Aveva posato accanto a sé lo zaino con dentro Agatha. Era rosso per la fatica e sudava da matti. A me la camminata era piaciuta. Ci eravamo raccontati barzellette e avevamo cantato. Ogni tanto osservavamo la signora Salici e il signor Holm per non perderci qualche eventuale vibrazione. Arrivati a Blautopf, la signora Salici naturalmente era estasiata. Suzanne sosteneva che avrebbe trovato esaltante pure un mucchio di letame, tanto era cotta. Poi è successo. Tom si è alzato sul tronco e mentre saltellava da una vescica all'altra, inavvertitamente ha urtato lo zaino, che ha fatto splash ed è finito nel laghetto, con Agatha dentro. Cristiana ha lanciato un grido. Tom si è messo a frignare. Agatha nega! Lui non sapeva nuotare e nemmeno Agatha, perché era una tartaruga di terra. La maestra ha domandato: quale tartaruga? Poi c'è stato un secondo splash. Bernard si era tuffato al salvataggio dello zaino. Il terzo splash era di Suzanne, lanciata dietro Bernard. Il quarto della signora Salici, per seguire i suoi due alunni. Ci siamo messi tutti a strillare come pazzi, correndo sulla riva. Era uno spettacolo vedere loro tre nuotare in mezzo al laghetto. Bernard aveva recuperato lo zaino e lo teneva alto sopra la testa. Suzanne aveva afferrato Bernard con una vera presa da salvataggio e lo trascinava a riva. Richard li ha aiutati a uscire dall'acqua. La maestra avrebbe anche potuto rimanere là, tanto l'acqua le arrivava solo fino al seno. Quando tutti ormai erano usciti dall'acqua, il signor Holm è arrivato di corsa. La signora Salici si è gettata tra le sue braccia, come in un film d'amore, spruzzando gocce d'acqua in tutte le direzioni. Poi il signor Holm l'ha baciata sul serio, mentre diceva: Giovanna, amore mio, mia amata. Tom ha tirato fuori dallo zaino Agatha, che si era solo un po' bagnata, se l'è messa davanti al viso e le ha sussurrato: Agatha, mio unico grande amore. Poi l'ha baciata sul guscio. Tutti si sono sbellicati dal ridere. Grazie al cielo, la maestra e il signor Holm non si sono arrabbiati con Tom per via di Agatha. La cuoca dell'ostello ha preparato un piattino di insalata verde apposta per lei. Dopo cena, ho portato Agatha in camera. Le ho accarezzato il guscio e lei ha agitato le zampette. Mi sono affacciato alla finestra e sul prato di sotto ho visto Bernard seduto accanto a Suzanne, che si tenevano per mano. Quando lei gli ha dato un bacio sulla guancia, ho capito perché quel pomeriggio si era attuffata dietro a lui. L'aria era piena di vibrazioni.